Antonio Bombolino, canale 10, Coppa. Antonello, come butta? Beh, ha fatto un caso, ciao anche a Luca. Aspetta, ciao a tutti e due. Mi ha buttato bene, è un caso, no? Rocco, no? Sono qua stai uscendo male, poi da Marco non lo so. Avanti Marco. Ah, maledettario. Allora Antonio, fammi un bel passaggio, aspetta quando te lo dico, eh. Vai. 1, 2, 3. Aspetta un attimo. Guarda un po'. Forse sei andato a potenza. Allora, sì, prima eri saturo, come sei sceso di segnale e sei diventato chiaro. Siamo sempre lì. Sì, ho capito. Mi sarei tu il segnale perché adesso ci sono stazionati. Quando c'è caldo non c'è vento, l'antenna si stabilizza. Quando c'è un vento incomincia la bobina oscillare. Solo che io a 35 gradi sopra non ci salgo. La faremo a portito nella bella, mi sono sentito male. Perché qua c'hanno il vizio di dati da bicchiere ghiacciato da un frigo, la birra con 35 gradi fuori, sono diventata a casa, mi stava pigliando già male. Già lo credo. E tu Luca, ogni tanto vedo qualche video, però sono arretrato, devo ancora vederli tutti, credo. Luca, a me mi ha mandato un video e c'è uno per fare un traliccio. Sembra la grossa. Vabbè, aspettiamo che torni Luca. Che ora è? Presto, sono le 5, 5 e mezza, e non è tanto presto, dai. Crevo 4 e mezza, tipo. Sì, sta scaldando, Io sono uscito stamattina, però, caspita, rispetto a lunedì che era ventilato, bello, a Piazza dei Segni era bello ventilato, eccetera, oggi per un caglio, domani peggio, dopodomani peggio e domani l'altro ancora peggio. Io devo stare regolando il cuore. Tu sei? Ho detto, già me lo stai regolando il cuore, ho detto. Anzi, ti ho detto, ti chiamo. Se fa peggio e peggio, ohia. Tu sei sotto tetto, è un casino. Nella mansarda lì dove c'è il baracchino ci deve essere un caldo boia, infatti l'hai detto tu stesso. Sì, qua c'è caldo, se in realtà la vento è più vicino, ma è spenta, perché poi una volta che l'accendi cioè sì, questo freschetto che è modo di dire, poi comincia a sentire tutta dolori nelle cose. E poi col caldo bisogna stare attenti alle bibite troppo fredde, qualsiasi cosa fredda, anche l'acqua, non è questione di birra. E poi a dirla tutta, col caldo bisognerebbe evitare le bevande alcoliche, non è che siano il massimo, sì sono fresche magari quando le bevi, però ti dà il doppio alla testa. Finché ne bevi una va bene, ma se ne bevi due o tre il discorso che hai già capito tu. Io avevo dato solo una, immaginati tu. Ma una lattina o una cassa? Ah, una bottiglia di Inchinusa per tutto. Beh, no, specifica è se appunto lattina o bottiglia o una cassa, non si sa mai, Ah, tranquillo, che cazzo? Ti pare che io mi metto a guidare, vado da Fusaro con lo scooter e poi mi metto a bere, cazzo, non sarei matto, no, cazzo, che ti ammazzami con quello scooter che c'ho io. Mi ha sottrappato una volta, è colpa mia perché ho gonfiato le gomme a 2,5. Ho ho fatto la curva in via Catalocchino, ho guardato in terra, c'è fermato la signora, metto un po' la mano, secondo me ho detto bene un po', io detto. Allora mi ha rimesso la moto in piedi, si è fatto male, ho detto, meno male che non ho fatto niente, e ti aspetti che mi rimetto la spesa, che ho fatto da via Verona, ho detto, qui nello spi e vado a casa, ho detto, piano piano, per sicurezza, ho detto. Ah, così è, cioè le gonfiate troppo ed erano troppo rigide e facendo la curva si è impennata diciamo di lato e si è caduto così. Ehi, si è impennata nel lato, perché non c'è ammortizzatore, controllato, ci sono solamente come si chiama sotto, come il tram, hai capito? Non c'è ammortizzatore dietro e avanti, perché controllato l'altro giorno. Poi quelli sono mezzi particolari e stavo pensando che non avessero una pressione di lavoro anche più bassa delle gomme dell'auto, tipo anziché 2 atmosfere tipo 1.5, una cosa del genere, quello non lo so, bisognerebbe controllare cosa c'è riportato sul pneumatico, se c'è scritta la pressione in bar o in PSI, PSI e poi si fa la conversione in atmosfere, capito? Ah, a me perché me l'ha data, non mi ha dato le documentazioni né niente, capito? Me l'ha regalata così e basta, cioè regalata, c'ho 50 euro, cosa vuoi comprare? L'unica cosa mi hanno regalato poi sono le batterie, che costano più della, come si chiama? Sono quelle al gel, immagina, due batterie al gel, 70 ampere, 600 euro. Eia, Luca, sei rientrato? Hai visto Antonio quella che ti ho mandato? Sì, l'ho vista, 1000 euro, già l'ho vista. Quella è tipo un fuoco bike, ma a 3 ruote, cioè, c'ha 3 ruote, quella è peggio, mica, come fai la curva, sai dove ci sci. Marco, avrei voluto vedere Antonello il giorno dell'accaduto. Ah, così sei Luca, tutto leccato, ce l'ho anch'io il lecca-lecca adesso, com'è gradevole, 1, 2, 3, prova. Aspetta che lo tolgo, dai, perché questo si può anche escludere oppure... Abbassa, ragazzo, non si capisce la fanculo. Troppo. L'ho tolto. Com'è questo microfono, Marco? Questo è il Turner M+3, quello da palmo con la capsula in ceramica. Buono, non amplifica molto, anzi non amplifica. Ma qual è quello tipo grigio celestino, una cosa del genere? Aspetta, no vabbè, perché c'ho la cosa bassa, l'amplificazione è bassa per non farmi rientro nella... Guarda così, 1, 2, 3, prova, sono a metà di amplificazione. Sì, adesso pompa. Io il primo che avevo visto dal vero era nel furgone di Vittorio Giove nell'anno di grazia 1984-85. Caspita, mi era rimasto impresso quel mic. Già quello, sì, quello, un colore tra grigio e celestino, non so definirlo nemmeno. Esatto, guarda che ho mandato la foto. Sì, qui un microfono quarantennale. Aspetta un attimo che porto il monitor qua. Eccolo qua. Prova. 1, 2, 3. Vabbè. Ecco, c'è, funziona, adesso lo posso spegnere. Era una prova, perché girando il potenziometro in questo modo lo esclude, poi basta che lo tocco un pochino, eccolo qua. Ecco, lo posso lasciare anche così, dai. Comunque con il microfono amplificato non lo sa né di cosa. Solo ti sbagli quello che c'è dentro. Quello c'è dopo il modulatore, capito? Non usare il microfono amplificato in quell'apparecchio, usa il microfono normale, nato con il microfono normale deve rimanere così. Lo so, volevo fare una prova. Ah, c'è un Mikey A7 anche, Mikey A7, sto solo regolando dal microfono. Ecco, così ho sto il microfono, prova, prova, 1, 2, 3, prova, ola, ola, ola, così ho sto il microfono. Sì, già va bene. Ho avuto anch'io un tipo, c'è, cioè, uguale a quello, ma già se lo ricorda Marco, quel barattino 200 canali, modello americano, con il microfono normale andava benissimo, si attaccava l'amplificato, cominciava a peschiare, cazzo, e andava tutto in tilt. Ho preso e ho stacciato tutto e ho messo il microfono suo e la fa cuffia. Allora, questo è il Midland, l'originale, l'originale, diciamo così, di questa radio. Normale, microfono normale, come nuovo, come la radio. Allora, la radio è una radio fatta da Leo Barone Rosso. Questa, con la sua mascherina, con l'adesivo Studio Colt Mani, eccetera eccetera. E KK radio è come nuova praticamente, non c'è grafico, non c'è niente. Smitter con LED bianco ghiaccio, e vabbè, Recco e marche varie. Vediamo un po' se riprende Marco. Perché? Ah no, c'è il monitor, c'è l'altro baracchino, c'è, aspetta che lo sposto, ecco. Non, se no innesca. Cosa volete che... Ho perso il filo del discorso, scusate. Stavo leggendo qua, la pressione ai pneumatici per i mezzi per invalidi. Però non ne parla, ci dice controllare, controllare, controllare, non dice la pressione. Vabbè. Se fai come ho fatto io, stai tranquillo che la pressione già te discende quando vai all'auto soccorso. A me mi è andata bene, perché ho preso in pratica l'avvallamento che c'era lì da Catalocchino e mi si è girata, era proprio al minimo lì. Mi stavo cagando piano, mi si è girata, cazzo, mi sono trovato le due gambe sopra la moto. Immagina tutto, perché le batterie pesano intorno ai 30 kg l'uno, quindi sono 60 kg e quelli che mi hanno rimesso la moto a posto erano in due, se no ce lo ci vuole neanche a mettere la dritta. Marco, e io. Te immagini Antonello, prendendo quei dossier artificiali. Prendendo? Quei dossier artificiali. Ah, quello del comune, no? Comunque non mi stai rovesciando. Stato da Ciappani ridendo, da Ciappani. E cosa vuol dire? Era molto incubo. Io a 2:30 avevo visto che era cazzo, queste gomme sono sgonfie, a gonfiarle. La pressione mi sembra era neanche a 1. Penso che sarà la 2. Vabbè, ho preso e le ho gonfiate. Cazzo, come ho fatto, sono uscito da Aerospin, ho fatto la curva con la spesa, beh, e meno male, non c'era roba di vetro, non c'era il pomodoro e tantomeno birra in vetro, se non mi sarei ammazzato. Perché dovevi prendere un po' di confidenza, invece tu sei andato a Milli. Ed è così, siccome sono pericolosi, burro, bisogna che si gosi, devi stare molto attento e non caricare molta spesa, perché credo che anche il bilanciamento poi del peso che metti, insomma, incide. Oh, yeah. Vai Marco! Sì, allora, qua va tutto bene la modulazione, questo è un altro che era fermo da tempo, è il 7009. Vedete un po' come va? Bene. Non va? Bene. Ah, ok. No, qua bisogna sempre tenere tutto in aggiornamento, altrimenti si seccano, capito, i baracchini, come la frutta, sì, con i fiori si seccano, non servono più poi. E tu la notte quando vai a letto lo sai usare, li accendi e li lasci accesi. Ma qua io ne posso mettere due alla volta, boh, qua non c'è lo spazio, non è che posso, no, perché per mettere in funzione tutti quelli là che ho, servirebbe una parete intera, un bel mobiletto tutto a ripiani. Perché ti piace collezionare? No, a me collezionare non mi piace. No, non perché non c'è lo spazio, perché proprio no. Come ti ho detto l'altro giorno, se ne valeva la pena, uno compra, spende, oggi provo quello, dopo provo l'altro, ma per quello che ci si sta in radio, quando ne usi uno, al massimo due, è finito il QSO. Ma c'è come, il baracchino è cambiato ogni tanto, è come cambiarsi d'abito, capito? Come cambiarsi vestiti, ogni tanto ti stufi di avere sempre lo stesso look, no? E poi ricordati che io sono un accumulatore seriale. Qualcuno muoia, vanno a casa sua quando appena morto quello e parlano davvero, fate signora, se non sa cosa fare degli apparecchi, mi venite a me. Allora avete parlato in due e non è passato né l'uno né l'altro, però quello che ha detto Pomponi l'ho capito. Luca, ripeti. Ho detto che a te piace collezionare e fai bene. Se c'è lo spazio poi dove metterli, ogni tanto ne accendi uno, poi l'altro. Beh, tu esci bene quasi su tutti quelli che hai, anche perché sicuramente utilizzi microfoni normali, così che non c'è la differenza del radio, diciamo. Sì, poi molti apparati sono simili, per esempio il 7009 modula come 9009. Stesso mic, stessa qualità di modulazione, stessa timbrica, diciamo il 9009 è un po' più radio, è un po' più amplificato di radio, per quanto sia un mic normale. Qua sono per esempio di lato, vicino, tipo 5 cm, sto parlando a 3/4 dal mic, vediamo se mi allontano tutto il braccio, mi pare di vedere qualche picco, si sentirà più basso, però si sente ancora. Ecco, il 9009 con la distanza è già più forte, è più pompato, però il bello è che questo non scalda, vediamo. Questo scalda, diventa appena tiepidino, lo puoi usare tutta la sera in estate, non succede niente, però il 9009 scalda bestia, secondo me nel progetto c'è qualche lacuna progettuale, perché non dovrebbe scaldare così, anche con 4 watt scalda, diventerò 20 dietro, capito? Vai Antonio. Vabbè, anche le 9 con le 4.000 scaldano, non ti riguardare così, vabbè, io sono qui in mansarda, tra il PS 10-12 come alimentazione da 12 ampere e il baracchino diventano bollenti, l'unico che si salva è il 340 che c'è la ventola lenta, capito? Tu se si infila la ventola come era successo a me una volta con il GE, con quell'apparecchio che ha levato via il G, vediamo dove era. Che hanno quel difetto, si bruciano perché si inchiodano la ventola, ma tu vai a modulare la sattura, la vocalina, e tu mi hai detto, dice, ma dai Antonio, cazzo, ti si brucia con la parete, dimmi che se l'ha bruciato la sera. Cioè ti ho pindacciato io. E ti ricordi quelle GX, come cazzo si chiamava, con l'apparecchio modello V che tu mi hai detto, che ti si brucia. E io ho detto, vai, che non si brucia questo. Tutto l'altro lato, cazzo. Sono sceso in trasmissione dopo più uscito. Tra me, quello di Stefano. Ah, è vero. Che poi si era un po' scocciato perché gli ha detto, boh Antonè, ti do la roba e la crepi. Ti do la roba e la crepi, c'era una rimuffa con l'apparecchio che tu dovevi solo sentirlo. E da lì gli ho detto, c'è qualcosa che non va con questo apparecchio, c'era una rimuffa, modula, usalo tranquillo, non ti preoccupare. Ma non mi ha detto niente che la ventola è inciurata, hai capito? Io me ne sono accorto dopo che è sceso in trasmissione, gli ho fatto guarda che l'ho aperto dietro, gli ho detto la ventola non funziona per niente, è morta. quindi gli ho detto, secondo me è presa una prostituta, gli ho detto, ti hanno trovato già, gli ho detto, come inculata, lui, non è possibile, mi hanno detto che l'apparecchio è, cazzo sei una pillola di buffa, gli ho detto, c'era un'ora, faceva solo schifo la pillola, secondo me è stato dentro un appartamento e gli ho detto in mezzo all'acqua. Ma poi gliel'avevi ripagato? No, assolutamente, mica è colpa mia. Già l'ha notato anche lui, l'hanno portato a controllare, c'erano tutte le piste di sotto, tutte piene di ustino. Non voleva aver visto quell'apparecchio. Infatti c'era tutta una cosa, non so se si abbia buttato, come si chiama? Quello capitano di Biasoso che parlava da Lacchino. Sì che gliel'hai ripagato, pensaci bene. No, non ho ripagato niente, sta tranquillo, non ha avuto soldi. L'unica cosa che avevo ripagato era legnare e basta. Va bene. E tu stai dicendo, il legnare ce l'ho qua ancora, mi. Lo sai, il legnare quello lì, ce l'ho ancora qua. Ha avuto 200 euro, 200 euro gliel'ho dato, e poi 200 euro mi sono tenuto il legnare io. Il bevuto 1000 euro, quella transistor. Era peggio, era di quello di Olbia. Antone, dimmi. Ma in via Sosso non c'era quel ragazzo, se non sbaglio si chiamava Mauro, che per un po' ha modulato. Mauro. No, non era Mauro. Non mi viene in mente il nome adesso. Già ho capito di che ti stai riferendo. E che c'aveva l'antenna proprio all'inizio di via Sorso, dove c'era quel fabbro lì, mi ricordo che c'aveva lì l'antenna, io mi ricordo che si chiamava Mauro. No, c'erano solo due CB, non era Mauro. Vai Marco, mi assento che devo fare una filettatura, a dopo. Sì, ma che voi sappiate, siamo o non siamo investiti dalla tempesta solare? O ancora non è arrivata? Non succede nulla con la tempesta solare. Infatti, quando c'è stata la tempesta solare ci sarebbe stata propagazione. Per quanto ne so io, problemi di dati non abbiamo, perché a meno che non sia in alta frequenza il problema. Dipende dalle radiazioni che frequenza hanno. Il 27 comunque non è mai successo niente. Io da quando hanno detto guarda, ma non è attiva, c'è blackout in radio, ogni propagazione, il 27, la 27 a 30 mega si sa la propagazione. Invece giorni fa, quando c'era fresco, giorni fa c'era, aspetta, cos'era là? Che città era? Dalle Marche, aspetta, cos'era? Porca miseria, non mi viene il nome della città. Insomma, ho parlato con questo italiano che diceva che non sentiva nessuno da Sassari, dalla Sardegna, insomma, sentiva poca gente, poco niente. E poi la propagazione si è chiusa in modo repentino, giusto, guarda, pochi passaggi, poi chiuso tutto, spariti. Porcaccia la miseria, non mi viene il nome della città. Ci ho parlato con un sacco di gente, anzi, roba che non è mai successa. La zona di Monza, io ho parlato con la zona di Milanese, Monza, Venezia addirittura, mai l'avevo sentita. Roma, roba che non sentivo tantomeno. L'unica cosa che rimane è Brasile, non sono mai riuscito a arrivarci. Una volta solo mi ha collegato per sbaglio, in questo statunitense, e qui il blu. Di solito li collegavo da Vitrito, perché c'era un punto che era aperto e quindi ci arrivavo tranquillo. Però, già lo sai che qui sono tappato. Aspetta un attimo. Figlia. Billy, su che andiamo, su. Emmo. È Marco lì? Marco. Ehi, c'era Emanuele, ho detto Emmo, come risposta e non ha risposto. Non so se ti sente neanche. Sì, che mi sente, è solo un'antenna diretta e 12 watt. Già vi sento, prendete voi, che mi sto spogliando. Ai, che bello. E c'è che bel vedere. Rumola di piedi, Marcolino. Telefonami. Anzi no, ormai quello era ai tempi di Pauletta, c'è la videochiamata direttamente. Allora, caro Luca, Pomponio si è assentato perché, mi ha detto il perché, ma non ha detto, non ho capito niente. È caduto nella sua lingua, così. No, io ero fuori, stavo facendo, ripassando un filetto. Infatti poi non sentivo più niente, ho detto, già andati via sono. Guarda, si sono viste anche le emorroidi dallo sbadiglio. L'antenno si è allontanato che doveva fare qualcosa, ma non mi ricordo cosa. E poi che altro? Che te devo dire? È andata a bere una Bex. Prima che a un certo punto mi aveva detto che l'altro giorno si era bevuto, non so, una bottiglia e una, si era bevuto una birra. Dice, me ne sono bevuto una e si era sentito male, ha detto, ma una lattina o una cassa? Dice, no, una bottiglia, forse era fredda. E non credo che la sua età adesso riesca ancora a tenerne tanta, non credo proprio. Eia. Adesso basta poco e si rovescia. Sai cosa mi ha ricordato come si è capottato? Quella macchina a tre ruote, che lui ha accennato alla UFO Ecobike che ha tre ruote, quella macchina del Menga inglese, la Robin Reliant mi pare si chiami, l'hai vista? Sembra un motocarro, carrozzella ape a tre ruote, che basta che appena fai una curva, ma poco veloce si rovescia. Oggi tu abbiamo appigliato un motocarro, magari di quelli chiusi, così ci metti la spesa d'inverno, non muori dal freddo, e con quello che ha, dove, come fai d'inverno? Mi dice Gadda, ovviamente c'è paradura, un ghiscio. Vabbè, ti tappi, è come andare in scooter, ti tappi bene, ti metti un giubbotto, bello teccio, una cuffietta, tanto lui le usa di più le cuffiette, cioè, i copricapi, a me non mi servono, anzi io non li tollero proprio le capelli di nessun tipo, mi dà fastidio, è come il casco, mi viene da grattare. La cute non respira, già c'ho i capelli belli folti. Prurito da... Sì, neanche io la cuffia la sopporto. Prurito picchiato nella parte della fronte, non tanto in testa, nella parte della fronte però è una cosa allucinante. Invece con la bandana no. Sì, magari perché di cotone, più sottile, più traspirante, però io capelli non ne ho mai usato di nessun tipo, cuffiette o... Non mi piace, mi schiaccia i capelli, non lo sopporto, guarda. Bene, hai visto quel microfono che ti ho mandato? Quello che dicevi. E dov'è il telefono? Aspetta, non so manco dove sia il telefono. Aspetta che lo cerco. Niente, no, che per musica. A Londra, Luca Flipper, e questa roba cos'è? Delle gru, delle... Aspetta, vado all'ultima foto. Ma quanta roba mi hai mandato? Ah, questo l'ho visto, questi non invece. Allora, il microfono... No, non è questo. Non è questo. Forse era il più 2U, quello ricordo io, ed era proprio grigio e celestino. E il cursore mi pare di ricordare fosse o sopra o davanti, comunque sul frontale. No, questo c'era dietro invece, il cursore, sempre slitta, però c'era dietro. Un bel microfono, molto vintage, però vedi com'è in ottime condizioni. Ma ti dirò che non lo conoscevo nemmeno, poi così chiaro, mi ha fatto un effetto strano, non l'avevo mai visto. Forse è più recente, rispetto all'altro, sì, l'altro c'ha 40 anni, forse di più. Tu pensa che ci vanno quelle pile mini, sai quelle piccoline, non a bottone, no, è una stilo però da saranno 3 centimetri, però da 7,5 volt, immagina. Sì, sì, allora avevo un microfono Intec amplificato con quelle batterie lì, era una maledizione trovarli, una maledizione, erano introvabili perché erano, mi pare di ricordare, anche all'ossido d'argento, o al forse al mercurio. E allora sai cosa facevi? Mettevi delle pile a bottone in fila, o sto sbagliando io? Ah no, non era da 1,5, però quello che avevo io aveva pile strane tipo da 6 o 7 volt, sempre piccoline, la forma delle stilo o delle mini stilo, però molto più piccola, ed era un incubo trovare le batterie. Allora, siccome il voltaggio era quello, prendevi varie batterie a bottone, se volevi li mettevi un giro di nastro adesivo per tenerle belle impilate e lo inserivi dentro. Sì, ma infatti, alla pace adesso lo sto alimentando con una batteria da 9 volt. Però la batteria, quella che ti ho mandato, vabbè, questa è da 1,2 volt e non ce la fa alimentarlo. Però sono così, ma da 7,5, penso che ne ho trovato una l'altro giorno da 12 volt, così piccolina. Infatti ho detto, impossibile che questa, ho misurato 12 volt, cioè ti rendi conto? Le facevano anche da 12 volt così piccoline. Allora, ho trovato la foto del P2U, Turner P2U. Però non ha il coso frontale, credo che ce l'abbia sopra a questo punto, là. Sopra o dietro il coso del volume. Quello che ho visto io è questo, P2U, c'ha il cavo spiralato grigio, la griglia grigia e poi questo colore, vabbè, qua hanno fatto male la foto, dovrebbe essere intorno al celestino pallido, una cosa del genere. Se trovo una foto migliore te la mando. Ecco, vedi come c'era il cursore questo? Sicuramente il pezzo, non so se esisteva o no, il tasto, dai, se è stato perso, non lo so. Sì, è così. È così, sì, ma guarda che anche cosa ce l'aveva così, anche all'epoca Vittorio Giove ce l'aveva così ed era al massimo. E io stavo pensando che non l'avesse appunto messo al massimo e poi troncato la levetta in modo da non abbassarlo, da tenerlo sempre a manetta. Poi lui c'era però migliorato, aveva migliorato il circuito e quindi anche la timbrica, ma ci aveva una modulazione dal furgone spaventosa. No, questo tutto restaurato dentro non funzionava nemmeno. Non funzionava proprio nemmeno, l'ho tutto restaurato, cambiato i componenti, tutto ossidato. Allora gli ho sostituito i componenti, rifatto a nuovo, l'unica cosa che non ho cambiato è lo slider. Però sembra, l'ho pulito bene, sembra che si sia ripreso perché anche lì non regolava niente. Adesso funziona decentemente, veramente bene. Oi Billy, su che andiamo? Eia. Luca, l'ho trovato, quello che dicevo io. Stavo cercando una foto decente per inviartelo. Sì, un celestino chiaro, azzurrino, adesso come dire. Questo è originale, non gli ho fatto niente. L'ho pulito per bene. E credo che abbia una quarantina d'anni, Mo arriva, Inviato e rivitto. Eccolo qua, poi hanno messo la scritta davanti, però è scritto M più 2U. Sì, se noti il cavo è uguale identico al mio, anche il mio cavo, è così, ce l'è, è uguale. Sì, no, è molto diverso come microfono. Molto molto diverso in effetti, sì. È anche più piccolo mi sembra di questo. Ti ho mandato, sì, oggi forse ti ho mandato 2 o 3 video oggi, qualcuno divertente, poi ti ho messo quello che sto vendendo, quella friggitrice d'aria, e poi sì, video di torre amatoriale, quelle robe lì. Avanti chi vuole parlare, 5 minuti di pausa. Componio se fa la dal fumo. L'hai vista la foto di quel baracchino, Marco? Quale? Quel 48? Stavo ascoltando il pezzo mio, aspetta, tipo qua. Non succede niente, però 2009, scalda. Che voce da minchione. No, ce l'hai in tutti gli apparecchi così tu, la modulazione, qua c'è gli apparecchi che utilizzi. Forse perché, ripeto, forse utilizzi i microfoni normali così che non c'è un grande cambiamento, ecco. Conta se provi un Tarn più 3, un MB più 4, un MB più 5, allora sì. Sì, sì, infatti i baracchini sono fedeli, è la voce che è da minchione, capito? Pari la modulazione di Topo Gigio. Topo Gigio. Oia, Manuele, raccontami qualcosa, ma stai uscendo dal lavoro o devi andare? No, sono uscito e adesso devo rientrare alle 10:30 fino alle 6:30 di domani. Mamma mia, e chissà quante ore hai fatto prima, ma questo non è un lavoro, è una galera. Lo so, c'è caldo pure, si muore, cazzo, guarda, c'ho le mani all'aria con questa gente qua. Ma non c'è possibilità di salire di, non lo so, qualcosa di meno, roba che puoi stare tipo dentro, sai a cosa, quelli che stanno dentro gli uffici, tipo via Gianfarino, come si chiama lì, che ci sono quelle guardie che stanno dentro lì all'ingresso, controllano chi entra, chi esce, ti danno informazioni, però belli sono all'Ubrecco, capito? Non c'è possibilità, no? E noi ce l'abbiamo quello, solo che non c'è corrente, e quello è il problema, non c'è la corrente, c'è il gabbiotto, tutto, ma non c'è la corrente. E quindi uno non ci può né rinfrescare né niente, no? Così è. Bisogna mettere un gruppo elettrogeno e arrangiarsi. Mamma mia, condizioni di lavoro, vabbè. Capito, il lavoratore, l'importante è che faccia soldi l'azienda, i capi dell'azienda, poi i lavoratori sono, come dire, cose da consumare, ecco, finché uno proprio non ne può più, o si lascia le penne. Ah, guarda Marco, manca ancora tutto il mese di agosto, poi finisce e poi si rabbia in culo e faccio la disoccupazione per 2 anni e poi vediamo un po' di trovare un altro posto di lavoro. 2 anni? E si può prendere che duri 2 anni? Sì, passati 50 anni ti spetta 2 anni. Ah, è interessante, no, almeno ti riposi un po', ti svaghi un po', capito, ti rilassi un po', perché è veramente una cosa allucinante, da come lo descrivi, io sarei morto già il secondo giorno. No, è così, te lo dice chi l'ha fatto quel lavoro lì, Marco, lascia perdere, non ti sto dicendo male, perché cazzo è un lavoro di merda, perché di merda. Come lavoro non ti spacchi la schiena, vabbè, ma è stressante mentalmente, è un bel stressante questo lavoro. Che poi guarda, in inverno già sto meglio, ma in estate col caldo no, io sarei morto, altro che, perché io fare tipo l'antincendi, cosa, per carità. Io a casa devo stare sempre in pantaloncini, sono in perigioma, dico, in pantaloncini, perché a parte che io ho più caldo del normale, sento più caldo delle persone normali, quindi sono sempre, se fossi solo in casa starei anche a culo nudo. Adesso fate il conto, stanotte faccio dalle 10:30 alle 6:30 smonto, arrivo a casa che arriverò alle 7. Mi sfuglio, sto quarto, cosa dormo? 3 ore, perché alle 2:30 devo essere già in servizio, fino alle 10:30 di sera. Dimmi tu se è vita questa. No, infatti non è vita. Se hai la possibilità, falla quella cosa lì. Ti riposi un po', capito? Ti svaghi soprattutto, devi staccare un po' da questa routine, per carità. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare. Nulla. Antonello quando va a fare cose poi non torna più, quindi non si rientra Luca Flipper, senza Gianni dopo, insomma. Saluto Natalino, se l'ascolto, se la sente di entrare per un saluto. Ci sei Natali? Sono qua, aspetta che metto il microfono normale. mi viene meglio. Oh Marco, Sia. Ma poi mica ti ha, poi ti ha risposto anche Antonello, ma poi come è stato Natale? Non ho più sentito io, vabbè che non stavo entrando neanche più io quando entravo, ma avevo manco il tempo di entrare. Male, male. Naturalmente non entro in dettagli per la privacy sua, però non sta affatto bene. Chiamalo magari, se se la sente già ti risponde. No, ma già lo so della situazione, già lo so la sua situazione. Purtroppo, mi dispiace molto, troppe ne stanno capitando. Tra l'infarto, l'aneurisma, già gli è venuta poca di roba, sembra che l'abbiano, che gli abbiano messo occhio. Cazzo, deve andare a Lourdes deve andare. E ci vado anch'io, mi. Chissà che non mi facciano la grazia. Uia, per carità, roba drammatica, uno schifo sto cazzo di mondo. A voi una vita, poi cazzo quando sarai che ti prende la pensione te ne capitano di tutti i colori. E poi sai cos'è, uno lavora una vita perché la pensione da noi, cioè vogliono che lavori fino, che lavori il più possibile, in modo che appena vai in pensione sei già vecchio, ti farà un raio e così l'INPS non ti paga la pensione. Capito? Devi morire sul lavoro, in modo che così almeno non ti danno la pensione, a meno che, vabbè, tu non ci abbia una moglie, e allora c'è la reversibilità di una parte della pensione. Ma fate così, questi bastardi dell'INPS sono così, cazzo la pensione, te la danno quando sei già morto. Ah, quando avevo la pensione io, sono andato mese scorso. Ci vediamo consigliato all'11, quindi ci passeranno 60 giorni se tutto va bene, se no una... tutto un flusso, Ehi, tutto flussato, se Antonio, c'è questo pii. Poi se mi posso chiamare l'uomo, come cazzo faccio a pescare con il microfono in mano, lo sì. Ora, 1, 2, 3, 2, 3. Non ti puoi monitorare appena appena, in cuffia magari, stai innescando, c'è questo con microfono normale, c'è una strana. Mi, cos'hai toccato? Adesso non fischia più. Come l'ho toccato? Ho schiacciato un microfono, l'ha portato bene, Forse era fermo da un po', cosa ti dico? È che il Mac normale non ha componenti nemmeno, Non è dire un condensatorino che si è ricaricato, no? No, non è un componente, no, c'è la capsula normale, c'è. No, appunto, non è di quei condensatori che magari stando fermo si... Ecco Antonio, ma cosa c'è sul 2PMR? Ogni tanto sento un segnale forte, come se qualcuno agganciasse un Parrot. Poi si sente un attimo di silenzio sul segnale e poi un beep, come fosse un Parrot ma inutilizzato. Sul canale 2 mi ha detto. Ehi, canale 2, non lo fa spesso, però ogni tanto senti questo, poi silenzio e poi beep e stacca. Mi chiama lei? Oh, non si cita un cazzo qua, sono stato 4618 e canale 2. Vabbè, una volta c'era, però me ne sono accorto e dopo il secondo giorno ho tirato l'ascolto un tipo, invece che sta sperimentando magari la casa sua, hai capito, gli intervistavo, su due non c'è nulla, aspetta che faccio allora 446, canale 3, niente, 4, nulla. No, no, è libera adesso, è sporadico, però ogni tanto senti questa portante con un attimo di shh, poi segnale mutto e poi bip e cade e molla. Magari la sua ripropagazione è cristiano, perché c'è un sacco di radiatori, stiamo installando ripetitori da baraggiare in 446, meglio sai, sì. No, non lo sapevo. Non gli basta tutta la UHF che hanno, vogliono anche rubarci il PMR. Sto dicendo, tu controlla su Facebook, entra su Facebook, c'è un gruppo, si chiama Aquila, non mi ricordo come la versica, e sono la più della metà sono tutti lavoratori. Se ne vanno in punta i ripetitori, hai capito? E parlo da là, è come se io veramente prendo un altro, salgo a Usi, metto su sotto il ripetitore di Usi e mi porto l'antenna con la canna da pesca, usano più la valigetta che sembra quella valigetta cattolare che usa Putin, dentro c'è la batteria, il PMR eccetera eccetera, hai capito? Il PMR è quello grande, non quello piccolo. Una catena base in miniatura. E voglia di chiamarti sul 12. Ah, le stazioncine, sì, quelle installazioni temporanee, sono una figata. Ho visto quando fanno una batteria da 12, quelle il piombo gello, quelle normali, no? Una radio HF, una bella antenna portatile HF, magari anche multibanda. E ci fanno i DX, e via. Vediamo se è rientrato Luca Flipper. Già ci sono, stavo ritirando la roba qua, Marco. Ciappa. Antonio, ho ricordato la città l'altro giorno, era Ancona, la città di Ancona. Praticamente si affaccia sul mare Adriatico, capito? E lì praticamente hanno l'Appennino, quello centrale lì, l'Appennino Umbro Marchigiano che fa da schermo, però la propagazione, capito, ha scavalcato tutto, i miracoli della radio, e sono arrivati, però ripeto, per pochi passaggi i segnali ottimi, e poi si è chiusa la propagazione in modo repentino, proprio il segnale l'ha visto fare, chiuso, non abbiamo potuto continuare, sparito, chiusa la propagazione si era. Ho capito, mi sembra l'avevo sentito, il beppi di Antonio, anzi, mi sembra Antonio. Sì, mi senti? Sì, che ti ascolto Antonio, sono alle 7. Ok, grazie, buonasera a tutti comunque, 63. Ti sento. Oh, ti sento meglio, vabbè, continuo, ti sento meglio col 140, metto appena col QFM. Sono con il discorso mio, ti ascolto nitido. Forse Marco ti ha ascoltato meglio di me, anzi, Luca avrebbe sentito molto meglio. Se hai attaccato il digetto, non so se è liscio o se è con Gigetto. No, secondo me è liscio, perché qua è 8. Ma è la radio che deve aumentare, Antonio. Ma non gli avevi dato un microfono amplificato? No, io lo sto facendo, hai capito? C'è uno di quei microfoni con l'eco. Infatti in pratica devo fargli attacco Midland, hai capito? Però prima di fargli quello devo farlo funzionare. Perché avevo pensato l'amico che usava l'FM500S, dopodiché quello ha preso in pratica la crebbatura, la scatola di sotto, sono uscito a farmela regalare una, però non riceve il radio. La batteria funziona, lei accende, però non riceve il radio. Adesso devo controllare i trimmer, magari sono distaccati, cosa ne so. Devo controllarlo e così gli regalo con il microfono che era lei amplificato, capito? Ma basta, infatti perché aumenta la radio è a posto, anche se il segnale è 8. Quando ha attaccato il lineare sì, è arrivato 9.10, ma però se c'è quel problema là, capito, meglio evitare. Fatelo venire avanti un attimino, perché io avevo lo squelch automatico che chiude molto i segnali sotto il 7 mi pare, o quant'è. Antonio, avanti. Ok, non so se mi senti. No, comunque te lo so dire, non si è lamentata fino adesso, no? Non te lo so dire, guarda, fino adesso se no mi arriverebbe il messaggio subito sul telefono. Allora Antonio, Santiago 6, però la radio è 3 e la radio è un po' scarsina, anche perché sento roba sotto, capito? Quindi la radio sì, si può migliorare, anzi si deve migliorare, la modulazione, ecco. Va bene, riprendi che vado a bere, Luca Flipper. Meglio. Sempre che quando, non è, quando aumenta la radio non li entri a peggio a quella là. No, ha cambiato posizione dell'antenna, non la vale. Adesso non li faccio rompere le balle. Sì, cazzo. C'ero io quel giorno. Cioè, alla fine, sembrava una comica, sembrava. Parlavamo, questa era come cuffia. Noi parlavamo, Castelli mandava il messaggio a lui, gli mandava il messaggio, ogni secondo messaggio, diceva tutto quello che diceva Baracchino. Adesso che vedi, non è una persona cattiva, nel senso che ti stava confermando che stava, che gli stava entrando nelle cuffie comunque. Sì, ma nei cuffie piccoline che stava ascoltando lei con il telefonino, cioè non ho capito io. Molto strana la cosa, ma molto, molto strana. Però sei sempre tu che devi, capito, purtroppo devi uscire. Lo so, beh. E comunque adesso la cosa è importante da vedere, c'è da un'altra parte. In alto anche è entrata più su di tutto quanto, il capo ha aperto via le risiotte, adesso è più adesso, si è provata con la scarpetta a vedere un pochettino, non si era messa tanto niente. Sollevo la voce però, tanto, sollevo la voce, ho avvicinato al microfono. Ok, così va bene. Così sì. Ok, va bene, perfetto. Sì, mi devo avvicinare molto al microfono, alla bocca mi devo avvicinare, capito? Il microfono suo originale non è preamplificato per niente, così che me lo devo mettere vicino alla bocca, brutto, ok? Sì, va bene così. Boh, che c'è rimasto, non so, avanti. Adesso è attaccato il cazzo, subito a fondo mi fa, il Coles 4000, il suo cazzo 2,5. E l'ascolto. Invece qualcosa non riuscivo a sentirlo. Ora. Tu ti devi mettere lì, quel RAM eliminato, io ce l'ho qua dentro il mobile. Fai due regolazioni, lo metti proprio a zero il RAM, lo sai come lo senti Antonio poi? Io l'avevo attaccato proprio a un 140, perché il 140 è una cosa incredibile. Con 340 c'ho 1,5. Il 140 fa 6, 7. Ti avrei accontentato, Luca, aveva chiamato il capo condomino poco fa, devo dargli 1.100 euro, quindi figurati tu. Perché? Perché il capo quando si deve lavorare, si è sbatte dai coglioni, se si sbatte dai coglioni sono sbattuto anch'io a un certo punto. E quindi adesso il 29 quando lo tiro prendo e vado come si chiama, pago una rata di. Sto uscendo, sì, ora. Pago una rata di copertura, quello devo pagare, dopodiché gli do 100 euro al mese. Se non ce la fai, no, con quello che ritiri, come fai se no? Solo te l'ho preso, passi e te lo prendi. Tanto una cazzata da utilizzare, ma tu verrai, io l'ho messo proprio nel 140. Te lo batti a zero il QRM, te lo batti a zero con quel sistema lì, capito? È una cannonata, e Antonio lo senti liscio liscio. Io ho collegato il Portogallo, tra Parigi, 8 e 5, parlava discretamente l'italiano il tipo. Oh, si è abbassato adesso, non ho capito perché, ma cos'hai collegato? Lì l'hai acceso subito, devi aspettare almeno 10 minuti, tempo di 5 minuti, no, non devi scacciare subito. Antonio, qua ti sei abbassato solo tu, mi. Io lo sento sempre sei. Io mi sono abbassato sì perché ho attaccato il Kenwood, ho attaccato il Coles 4000 per sentirlo. Ah, vabbè. No, qua il segnale è costante, il segnale 6. Guardami. Adesso, ecco qua, questo è il Coles, quello che mi hai regalato tu. Lo senti, ecco. Eia, ma quanti watt? 10 sono. No, perché ti ricordi che per uscire limpido devono essere 4, 5, massimo 5 in AM, poi comincia, se lo strozzi, cioè. No, non sto strozzando niente, grazie a Dio. Già mi è durato. Quanti anni me l'hai dato? Sarà 4, forse 5, adesso non me lo ricordo più. È più vecchio che sto tornato, quello che c'ho tornato, vabbè, il Superstar 3009 è quello modello che gli ho messo la scrivania nera. Sì, vabbè, quello è degli anni fine 80, no? Fine anni 80, inizio 90. Immagina quanti anni c'ha quella radio. L'avevi messa a posto perché c'era qualche magari potenziometro da disossidare, no? Ti ricordi? Ascolta, è quella stazione invece base, piccola, la Intec B3104F, ce l'hai ancora o l'avevi dato, si era rotta? Ah, era 340-10, era il AF. Quella l'avevo data, ma che cazzo l'avevo data? Non lo ricordo adesso. Quella era bellina, quella stazione base, MFM, 40 canali, era bellina, non me lo ricordo che cavolo l'avevo data, lo sai? Gianni mi sembra che ne aveva uno del genere. Era bella quella stazione base comunque, era un 40 canali stazione base, semplice, piccolino. Vabbè, ma comunque. Adesso c'è il periodo del Saturno, ecco, ho visto che hanno abbassato la cresta un dirigente. Non chiede più 400 euro, chi ne chiedeva 500. Sembrava cazzo che fosse America, sono cominciato a abbassare a 200, un dirigente. Quindi, cazzo, avevo occupato 150 euro, figura di tutto, finalmente. Cavolo, cogliolo, mi sta abbassami, ho dovuto mettere gli occhiali per vedere da vicino per leggere lo smitter, porca miseria. Succede, anche a me succede, quella che non c'è più 30 anni, mi avete fatto un esame di costo. Mano che aumenti di età, dai 50 anni si comincia a sentire la vista e se ti porti gli occhiali. Allora è vero che a farsi le pippe si diventa cicchi. A farsi le pippe si diventa cicchi. Già è vero quello. Poi cominciate a venire la prostata, poi eccetera eccetera, tutti i mali. Poi c'è tua moglie che non te da più. Dopo i 55 anni perché c'è la menopausa e quindi le mani senza fare nulla. Quindi o vai a pagamento se no ti attacca a puppa. Sì, aspetta che mi tocco intanto i gioielli, tocco ferro, guarda, non ci sia mai che parta pure la prostata. Marco, oh. Ma c'è un'antenna in via Principessa Yolanda, mi sbaglio via Principessa Yolanda, tutta assorta, una verticale, però si capisce che antenna sia, è un po' piegata. Allora, per caso, via Principessa Yolanda, angolo via Gavino Matta, dove ci sono quelle scaline? Angolo via Trento in pratica, appena tu giri da via Trento, giri via Principessa Yolanda, quel palazzo sulla sinistra. Sì, la vedo, la vedevo anche da l'ex casa mia, sì. E lì c'era mi pare fosse anche un tassista, se non ricordo male, la moglie parlava tramite radio, forse gli dava anche le chiamate, cioè chiamava il numero di casa e la moglie le indirizzava verso le chiamate, però qua lo dico, qua lo nego. Antonetti, risulta? È probabile, perché allora esistevano quei 34 canali, quindi parlavano nei canali di sotto, se ti ricordi bene, come l'avevo fatto io con Di Matteo. Quelli che vendevano vestiti lì via di Gata Sassari, piazza di Italia, piazza Castello, via la Marmara, che avevano installato l'antenna, c'era addirittura che avevo installato una campina via Roma, su in alto. C'è un bel gente che chiama l'FM500S, modificato, vabbè, parlava dai 34 sotto, infatti, attiva dal canale di sotto. Non come era originale prima, ma già te lo ricordi come li modificavo io, bastava spostare il cavetto dal centro, metterlo a fianco e tirava 34 canali sotto E tra quanto ce la vedo domani? Guarda, non mi ricordo nemmeno il nome. Io una volta mi facevo un battimento feroce perché era 50 metri, no, fai quasi 100, un battimento feroce. Non mi ricordo nemmeno il nome di quel ragazzo. Credo che ci sia quell'antenna da proprio fine anni 80, da un'eternità. È strano che non abbiano anche rimosso i resti. E già viene avanti, Antonio. Ok, comunque c'erano quei telefoni che avevano l'antenna fuori, cioè sul palazzo, e poi c'era un traslatore che arrivava alla chiamata direttamente col taxi, cioè il telefono, queste parole che l'avevi dentro, col numero 2 di casa, che l'aveva installato una persona che faceva il taxi, e adesso è morta. Antonio, perdonami, però questo passaggio, la modulazione negativa, non ho capito praticamente nulla del passaggio. Poi un'altra persona ha detto che non ti sente, adesso lo mando avanti. Avanti, chi vuole entrare? No, negativo, forse ho sbagliato io. Non è che possiamo tentare, che so, in FM? Proviamo.